Tornare a vivere. Leggo nella Bibbia, nel libro di Ruth, capitolo 4, versetti 14 e 17. E le donne dicevano a Naomi: Benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele, egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: È nato un figlio a Naomi. Lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Nei momenti difficili della nostra vita siamo così concentrati sulla situazione in cui ci troviamo che spesso non riusciamo nemmeno ad immaginare che potremmo ritornare ad essere felici in futuro. Il libro di Ruth ci fa proprio vedere la storia di Naomi, che progressivamente passa dalla tristezza alla gioia, dalla completa disperazione alla speranza di un futuro radioso. La disponibilità di Ruth ad essere usata dal Signore per la consolazione di Naomi fu fondamentale e alla fine ha dato i suoi frutti. Leggendo il libro si nota come Dio guidò le cose, lasciando che Ruth trovasse lavoro nel campo di Boaz. C'erano decine e decine di campi in cui Ruth sarebbe potuta andare a finire, ma per caso si trovò nella terra appartenente a Boaz, un parente di Elimelech, che aveva quindi diritto di riscatto, ovvero poteva sposare Ruth se lo avesse voluto, e il primogenito nato da quell'unione sarebbe stato progenie del parente defunto. Questo secondo la legge descritta in Deuteronomio 25, versetti 5 e 6. Mentre gli increduli credono nella fortuna, noi sappiamo che Dio ha ogni cosa sotto il suo controllo. Dio mostrò la sua compassione verso Naomi, lasciando che Ruth incontrasse Boaz, e da qui in poi la storia assunse toni completamente diversi. Naomi capì che le cose potevano cambiare. Finalmente, dopo tanta amarezza, Naomi rivide uno spiraglio di luce. Capì che il Signore poteva dare un futuro alla sua famiglia proprio usando la sua nuora moabita. Ritornò a vivere. Boaz sposò Ruth e il libro si conclude con una Naomi finalmente felice e con il suo nipotino in braccio. Dio consolò Naomi in maniera completa, al di là di ogni aspettativa. Naomi non poteva sapere che quel bambino che stava stringendo sarebbe stato il nonno di Davide, il più grande re nella storia di Israele. La Naomi che non aveva speranza sarebbe diventata quindi addirittura antenata del grande re Davide e di conseguenza del re dei re Gesù, il Messia. Colui che era sembrato un giudice cattivo aveva lavorato durante tutto il tempo come un padre amorevole per dare consolazione a Naomi, anche mentre lei non se ne rendeva ancora conto. Questo ha richiesto tempo e ha richiesto la strumentalità di persone come Ruth e Boaz nel lasciarsi usare da Dio a questo scopo. Dio ha guidato ogni cosa, permettendo che Naomi ritornasse a vivere con speranza. Forse oggi anche tu non vedi nella tua vita alcuna speranza per il futuro. Ma non scoraggiarti. Sei sicuro che Dio non stia lavorando dietro le quinte affinché tu possa avere ancora grande gioia nella tua vita?